sa che poteva anche non vederlo questo gol stasera, se in estate si fossero concretizzate certe trattative, uno da una parte e uno dall'altra. Mia nonna diceva sempre: se ti fanno una domanda e inizia con sé, non rispondere. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Matteo, per tornare a casa. Matteo, possibile una foto? Si può fare una foto? Matteo. Aspetta. Grazie Matteo, un calvino. La domanda, sapere soltanto come stavi e che emozioni stai provando. Bene, bene. Aspetta, dopo, aspetta, parlerò, che... dopo parlerò, dopo parlerò. Ah, salutaci così. Io poi ciao a tutti, foto. Ciao a tutti. Insomma, dopo posso parlare. I signori Giroud, Eriksen e Young sono pregati di attendere al Terminal 2. L'imbarco sul volo per Milano partirà a breve. Si spera. Clamoroso, salta lo scambio Politano-Spinazzola, perché? Perché Marotta ha dei dubbi sul terzino e vuole rivedere l'accordo. Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che è volato a Londra per cercare di dare un'accelerata alle trattative con Tottenham e Chelsea per Christian Eriksen e Olivier Giroud. No, noi abbiamo fiducia in generale, non è che abbiamo fiducia solo per i due giocatori, abbiamo fiducia nel lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore, con i nostri calciatori. Questa è la cosa che è più importante e che vale per l'Inter. Poi, se c'è la possibilità di migliorare ancora di più questa squadra, lo faremo. Beh, dopo questa intro sonora, Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato, possiamo anche chiudere tutto e andare a casa mandandolo in loop. No, beh, però ci è venuto in mente a tutti noi il bellissimo The Terminal, dove al posto di Tom Hanks ci sono Young, Eriksen e Giroud, non al JFK di New York, ma facciamo a Heathrow, fermato alla dogana Spinazzola, Conte fuori col cartello in mano che aspetta destinazione Inter. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Benissimo, anche perché c'è Marco Barzaghi che adesso ci spiega tutto, di mio collega di Mediaset. Barzagone, come stai? molto bene, grazie della chiamata. Grazie a te. Posso parafrasare una nostra cosa in codice dicendo: ma questo scambio si fa o non si fa? Non si fa. Lo scambio, posso dirvi che a quanto mi risulta è definitivamente saltato, visti i problemi riscontrati anche già della serata di ieri. Tardavano ad arrivare le firme, Marotta ha provato a cambiare i termini dell'accordo perché non convinto dalle, più che dagli infortuni passati, dalla condizione del giocatore, con Conte che avrebbe bisogno di un terzino pronto subito visti i problemi che ha in rosa. Risposta picche della Roma, che non ha autorizzato questa anche giornata supplementare di test atletici per Spinazzola, e quindi direi che è tramontato tutto. C'è un ultimo tentativo che sta provando a fare Petracchi insieme al procuratore di Politano, che è lo stesso anche di Spinazzola, Davide Lippi, di cercare comunque di prendere Politano, però l'Inter non lo dà in prestito e mi sembra tutto molto difficile. Il grande gelo, il grande freddo tra Roma e Inter, scambio che avrebbe sistemato anche i bilanci, oltre alle corsie laterali, dunque tutto bloccatissimo. E, beh, sorprendente Pierluigi, dato che Politano dovrà ripiegare, restituire la sciarpa della Roma e Spinazzola dovrà non disfare quel bagaglio con cui è stato filmato all'aeroporto. Per me, l'ho detto l'altro giorno, è una win-win, nel senso che dal punto, adesso poi io non è che faccio le visite mediche, non lo so dire, però dal punto di vista del senso complessivo dell'operazione mi sembrava una cosa utile. La Roma ha perso un giocatore, un attaccante con caratteristiche comunque da, o meglio, un centrocampista con caratteristiche offensive. Politano è un giocatore non simile a Zaniolo, però è un esterno offensivo che può essere utile, che può essere molto duttile. Spinazzola è l'esterno che sembrava poter servire all'Inter, quindi voglio dire, dal punto di vista di senso complessivo teorico dell'operazione, io ribadisco, secondo me era un'opportunità per tutte e due. Poi, certamente. Non faccio le visite mediche, ecco, dei giocatori, quindi non so come stanno e come stiano. Poi se c'è una componente, a questo magari Marco ce lo saprà dire di più, di qualche ruggine legata all'estate, al tira e molla su Dzeko, questo non lo so. Insomma, io penso che se ci sono le ruggini neanche si pianifica uno scambio come questo, no? Non si comincia nemmeno, quindi penso che qualcuno abbia cambiato idea, nello specifico credo l'Inter. O no? Confermo, anche per appunto quanto diciamo venuto fuori dalle visite mediche, c'è stato anche un tentativo, vi racconto, in serata a cena ieri sera di Davide Lippi direttamente con Conte per rassicurarlo sulle condizioni di Spinazzola, ma non sembra essere riuscito. Sì, Conte vuole qualcuno da mettere in campo subito, è lì fuori col cartello che aspetta. E a proposito, quei tre di Heathrow, invece Young, Eriksen e Giroud, quando partono? Ma possiamo dire che sono in arrivo, soprattutto però adesso l'Inter deve, non vendendo più Politano, trattativa che si riapre anche con il Milan, ha convocato in sede l'agente di Vecino, ci sono sul piatto delle offerte importanti, l'Everton di Ancelotti potrebbe dare quella liquidità necessaria per chiudere le operazioni che ha in cantiere l'Inter, potrebbe essere così. È tornato in Italia apposta anche Steven Zang, il presidente con poteri di firma, quindi per sbloccare anche la cifra destinata al Tottenham per quello che non è più un sogno Eriksen. Per arrivare subito al danese serve aumentare ancora un po' di più l'ultima offerta dell'Inter che ha recapitato ieri Ausilio a Londra, gli Spurs, di 15 milioni più bonus. Manca veramente poco e Conte potrà avere Eriksen e poi sbloccato la cessione a qualcuno di Politano. Rientra in ballo anche la Fiorentina, Giroud ha collegata a questa cessione, poi anche Young a questo punto, se riuscirà a farsi liberare dallo United, arriverà anche lui da Heathrow. Sì, sembra che manchi veramente poco, però quel poco non viene mai colmato, almeno in tempi brevi, cioè non sono certo. ma è metà gennaio, ragazzi, E lo so, ma Conte ne ha bisogno domenica, cioè ne avrebbe, li farebbe allora, giocare non dopo domani. Tutti hanno bisogno di tutto, l'Inter sicuramente qualche non profondità, chiamiamola così, nella rosa ce l'ha, soprattutto al centrocampo per i problemi che ha avuto, però insomma adesso noi dobbiamo ragionare sul 31 gennaio, poi è chiaro che prima ce li hai meglio è, la Roma magari stasera Napolitano l'avrebbe anche fatto giocare, sì, o l'avrebbe quantomeno portato in panchina, no? Quindi è ovvio che prima arrivano meglio è, però insomma l'obiettivo è arrivare al 31 gennaio con una rosa pronta per i prossimi 4 mesi, insomma, sì, certo. A me sembra che l'Inter sia molto attiva, da quello che leggo, da quello che ci dice anche Marco, insomma è tutto apparecchiato, si tratta soltanto di mettere le firme sul contratto e salire su quei dannati aerei, quindi questo è il senso della storia. Stiamo parlando di gente di certo livello, perché insomma Eriksen, Giroud, Vidal sembra ormai lontano, ma stiamo parlando di profili alti, non stiamo parlando di giocatori classico mercato di riparazione, stiamo parlando di che ci siano delle complessità, mi pare abbastanza normale. Sì, anche di giocatori che chiamano parecchi soldi per chiudere. Marco, Vidal invece è storia chiusa, no? Non completamente, però insomma mi sembra che il nuovo allenatore ci conti parecchio, soprattutto dopo l'infortunio di Suarez. Messi non vuole lasciar partire un elemento così esperto e che ha risolto anche parecchie momenti di difficoltà. L'Inter non ha chiuso completamente la porta, potrebbe anche fare un doppio affare a centrocampo vendendo Vecino, però al momento insomma non è caldo. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie buon lavoro voi. Marco Barzaghi. Ciao. Senti Pierluigi, sensazioni dalla giornata di Coppa Italia? Ma la sensazione generale è che ci sia stato un dominio delle grandi squadre sulle piccole squadre, c'è l'eccezione della Fiorentina, però insomma l'Atalanta delle grandi squadre è l'unica che ha giocato fuori casa, e stasera la Roma gioca contro il Parma e secondo me non se la porta assolutamente la casa, una partita equilibratissima. Poi per il resto insomma quando giochi Udinese a Torino, Inter Cagliari a Milano, con tutto il rispetto, col Cagliari di quest'ultima fase magari 2 o 3 mesi fa poteva essere diverso, sì, Lazio Cremonese, Milan Spal, insomma è difficile, Napoli Perugia, è difficile che ci possano essere grandi sorprese, quindi lascio il dibattito sulla formula, anche sull'attendibilità, quindi di conseguenza di queste, sì, di queste, il valore assoluto di queste partite, anche se è stata un'occasione secondo me per migliorare il tabellino di Lukaku, per migliorare il tabellino di Dybala, di Higuain, di Immobile, cioè perfino di Piontek, perfino di Piontek. Esatto. Allora facciamo così, ripartiamo da qui, dalla Juventus. Dybala, Higuain, Dybala, grande fraseggio fra i due, ancora per Dybala che si gira per Higuain, Higuain, la rete! Ci può spiegare quali sono i principi del sarrismo? Me li dovresti spiegare voi, perché è un qualcosa che avete, un termine avete inventato voi della stampa, però questa Juventus non può essere di Sarri, non deve essere di Sarri. Questa è la Juventus di Cristiano, è la Juventus di Dybala, è la Juventus di Higuain. Io sto cercando di metterci qualcosa di mio, però penso che bisogna rispettare molto le caratteristiche di questi fuoriclasse. Dibattito aperto 349-238-6666, WhatsApp vocali su quello che volete, dal mercato a una serata di Coppa Italia in cui, insomma, notte delle magie a Torino, Dybala sembrava Harry Potter, però onestamente le riserve dell'Udinese non erano esattamente l'esercito del male di Voldemort. Ciao Gianni De Biasi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, ciao Gianni. Stavamo dicendo con Pierluigi, testa attendibili, ma fino a un certo punto, perché oggi vedo grandi elogi a tutti, beh, Dybala, numero 10, fascia di capitano, lo scambio di tweet con Del Piero, bello fare gol così, ah sì, è bello la 10, la fascia, tutte queste belle cose, però è chiaro che se le risse, se che poi non è neanche riserve, però se la Juventus gioca contro le riserve dell'Udinese, vale tutto. Valgono anche queste suggestioni. La Juventus non è una Juventus di riserve, è una Juventus sempre di grande livello, perché ha una rosa sia in chi gioca con regolarità e chi gioca meno, che può mettere in difficoltà sempre qualsiasi squadra nel nostro campionato. L'Udinese, se poi gioca con la squadra non titolare, è normale che possa andare incontro a questo poker, come è successo ieri. La cosa bella è che ieri la Juve è riuscita a giocare per la prima volta, secondo me, un calcio che piace a Sarri, un calcio di velocità, di scambi ravvicinati, è un gioco discretamente organizzato. Credo che da questo punto di vista qui l'assenza di Cristiano, dico una bestemmia, abbia aiutato lo sviluppo dell'azione offensiva. Cristiano è un grandissimo, è straordinario, mi mancano gli aggettivi per definirlo, però condiziona per quel che riguarda aspetto dello sviluppo classico del gioco di Sarri da un certo punto di vista. Non è affatto una bestemmia, caro Gianni, poi detto da un signor allenatore come te, lo è tutt'altro. Beh, è verissimo, anche perché Pier, la sensazione è sempre che con Cristiano Ronaldo si cerchino faticosamente degli equilibri. Ora rimango dubbioso sull'attendibilità del test di ieri sera, che la Juventus è vero, è stata bellissima, scintillante, giocava due tocchi, si passava la palla come nel flipper, però dall'altra parte l'avversario non era di grande livello. Però è vero, no, che con Cristiano Ronaldo deve giocare Matuidi, suo mediano personale, si ricercano equilibri diversi. Non c'è dubbio che sia condizionante, ma questo condizionante è soprattutto al 99% in positivo, perché avercelo è beato chi ce l'ha. Poi è ovvio che qualche minimo adattamento te lo crea, ed è anche ovvio che nei momenti in cui è in difficoltà dal punto di vista fisico possa essere sostituito, come è successo in un paio di circostanze, una volta sostituito, una volta lasciato addirittura a casa a Bergamo. No, volevo dire una cosa, perché sentivo la clip di prima di Sarri, e questa cosa secondo me gli va riconosciuta, no? Quando lui dice dovete dirmi voi che cos'è il sarrismo, gli va riconosciuto il fatto che secondo me Sarri non ha mai ammiccato troppo alla costruzione del suo mito, cioè non è un allenatore santone che in questo tipo di ruolo si è compiaciuto così tanto. Questa cosa lui è stato sempre se stesso, quindi quelle cose che dice secondo me le pensa, poi che abbia creato soprattutto nel periodo del Napoli un'originalità di gioco dovuta anche ai protagonisti che aveva, alla sua concezione di football. Questo è indiscutibile, però questo va detto, perché tante volte appunto parliamo di sarrismo, ma ne parliamo soprattutto noi. Lui non ha mai, secondo me, cioè non se l'è mai tirata più di tanto, tanto per essere chiari da questo punto di vista. A me curiosisce anche un altro piano, che è quello della comunicazione. Mi sembra che sia stato, qui coinvolgo Gianni, sia stato sdoganato il vaffa alla panchina nello slang bianconero. È curiosa la dialettica tra Sarri e i suoi. Ha detto: vabbè, di che problema c'è, si è arrabbiato, che me ne frega, ieri sera gioca con la fascia di capitano, gioca benissimo, era successo con Cristiano Ronaldo. Mi sembra una dialettica abbastanza aperta. D'accordissimo, però io credo che certe cose debbano essere poi in camera caritatis sviscerate, perché sotto poi la cenere cova qualcosa che può creare delle difficoltà. Adesso va tutto bene, Madonna Marchesa, quindi non abbiamo problemi, però se le cose dovessero andare male, e non lo auguro ovviamente a una squadra italiana in Champions, cominci a andare fuori in Champions, non arrivi all'obiettivo finale, e poi cominciano a venire fuori quelle cose che avevi nascosto sotto il tappeto, queste cose qua è meglio sviscerarle subito, parlare con i giocatori, dire chiaramente: ragazzi, quando opero per il bene di tutti e non cerco di mettere in difficoltà nessuno, cerco sempre di fare l'interesse della squadra, e credo che non sviluppare un discorso su anche sti vaffa, anche questi mai contenti di uscire dal campo, devono essere analizzati. Poi magari lo fanno, quindi noi non lo sappiamo, e sono cose che fanno. Però lasciar lì le cose alla fine poi diventano delle valanghe che si ingrossano strada facendo. Cosa ne pensi, Pier? No, io penso che non ci sia un modello vincente di gestione dello spogliatoio, non c'è una regola, non vince sempre la disciplina militaresca e non vince l'anarchia, non vince la libertà degli olandesi negli anni 70 a prescindere, non vince lo spogliatoio diviso della Lazio romantico del 1974, non c'è una regola, non c'è una regola, c'è un... conta il risultato, conta l'alchimia che si riesce a creare e il tipo di energia che viene fuori. È chiaro che insomma non è bellissimo, e noi giornalisti se ci sono delle reazioni di un certo tipo le dobbiamo commentare. Mi ricordo qualche anno fa Shevchenko con Ancelotti alla fine di una partita del Milan, cioè i giornalisti fanno il loro dovere e commentano, i giornalisti, i tifosi, fa parte della curiosità umana. Beh, certo. Però poi, anche perché in alcuni casi sono episodi inclatanti. Ti ricordi, appunto, Gattuso l'anno scorso? Appunto, quello che è successo l'anno scorso, appunto, sì, con il litigio con che sì. Ci sono delle situazioni che sono assolutamente e che diventano inevitabilmente mediatiche. Però poi, e questo Gianni ci potrà dire la sua, possono anche in certi momenti diventare energia positiva. Ma tu ti ricordi le incazzature di Montella nell'anno dello scudetto della Roma? Con Capello, perché lo faceva uscire, perché non lo faceva giocare titolare, gli dava pochi minuti, però poi Montella entrava e segnava, quindi alla fine poi conta quello, conta il risultato finale, che un calciatore che esce non sia felice, questo è abbastanza normale, no? Sì, però ci devono essere anche delle gerarchie, no? Anche nei rapporti, certo. Anche a Gianni, anche a te sarà successo dalla panchina di avere, adesso si parla tutti con la mano davanti alla bocca alla Cassano, l'ha inventato Cassano, credo che prenda anche dei soldi del copyright, no? Pardo, mi confermi? È chiaro, adesso do pallota commercialista. Al di là della mano davanti alla bocca, sarà successo anche a te, immagino. Ma c'è una gestione ovviamente individuale al momento che ti accadono le cose, poi in base all'esperienza che hai riesci a manovrare la cosa nella maniera ottimale per te e per quello che riguarda poi il tutelare la squadra. Io adesso non facevo un discorso particolareggiato solo esclusivamente sul rapporto Sarri o Dybala, è che dico che alla lunga situazione che tu lasci andare, poi alla fine te le ritrovi. Noi non abbiamo analizzato altre situazioni che magari di squadre che non hanno vinto e che avevano delle conflittualità che non erano magari così palesate in maniera chiarissima, ma dentro lo spogliatoio ci sono dinamiche talmente difficili da gestire. Vi garantisco che la cosa più difficile non è fare il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 3524, cercare di mettere insieme delle aziende individuali che devono diventare una grande multinazionale. Questo è l'aspetto certo, difficile da gestire. Anche perché ci sono giocatori che sono fatalmente meno uguali degli altri. Esattamente, esattamente. Tu devi però cercare, con l'abilità che hai, nel cercare di aiutare quelli che sono meno famosi, meno ricchi, parlando con quelli ricchi che diano ogni tanto una fetta di polenta anche agli altri, in senso metaforico, mi spiego? Sì, sì, no, perché certo. Se gli applausi e i titoli sono sempre per Cristiano Ronaldo, poi Cristiano Ronaldo dovrà andare lì a abbracciare Tizio e Caio, che magari sì, tipo Matuidi, che certo, corre per tre, che non viene sicuramente. Certo. No, lo fa sempre anche Pardo con me, ogni tanto mi dà la polenta. Però capisci, ma alla fine poi se diventa non deve diventare un problema. No, deve è chiaro. Un problema, però voglio dire che ci sia dell'adrenalina in campo, secondo me. Quando gli allenatori dicono mi avrebbe dato più fastidio se fosse uscito dal campo non fischiettando, arrabbiato, certo, dicono una cosa che gli conviene dire in quel momento per smussare una polemica, ma in fondo dicono anche una verità, perché non c'è niente di peggio di un calciatore rassegnato, di un calciatore meneferista, di un calciatore demotivato, certo, e quindi poi alla fine è chiaro che non è quello il giusto equilibrio, è un calciatore motivato che però al tempo stesso riconosce le regole, le gerarchie, accetta l'autorità dell'allenatore, si comporta in maniera corretta. Mm-hmm. Però insomma alla fine c'è anche l'istinto umano, per cui se uno in quel momento è incazzato, a patto che non diventi una situazione generalizzata, perché se tutti quelli che escono è umana la reazione, il problema in fondo è che non sia una costante, esatto, tutte le volte, esatto, che è uno sostituito, è chiaro, questo concetto. Allora, facciamo fare una domanda a Massimiliano da Lucca. Poi? Vai, Massimiliano da Lucca, dai. Vai, Massimiliano. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo buongiorno fare una considerazione squisitamente tecnica. Uh-huh. Volevo fare un endorsement verso Dybala, che io considero dal punto di vista, non sto parlando del valore complessivo, della continuità eccetera eccetera, ma dal punto di vista squisitamente tecnico io lo ritengo un giocatore assolutamente straordinario. Io ho 42 anni e ho visto giocare tanti campioni, ma come tocco di palla, come sensibilità, come capacità tecnica di giocare a calcio, per me è un vero fenomeno, a prescindere dal fatto che sia stato discontinuo in passato, eccetera, eccetera. Volevo, visto che c'è anche De Biagi, volevo un parere da parte sua. Ecco, secondo me, calcisticamente parlando, è un giocatore delizioso, nel senso più autentico del adesso tempo. Glielo faccio sentire, per De Biasi aggiungo una considerazione, una domanda: quali sono specificamente i meriti di Sarri in questo Dybala? Gianni? Credo che gli abbia dato un compito chiaro che deve svolgere grazie alle abilità straordinarie che Madre Natura gli ha messo a disposizione. Ha un tocco e un talento naturale straordinario, e anche fisicamente, pur vedendolo da fuori, è uno che ha un cambio di passo incredibile, ha una visione di gioco anche in spazi stretti, provane sia i gol di ieri sera, quello scambio 1-2-3 con Higuain, da giocatore di grandissimo. Sono concordo perfettamente con il giudizio che dava ora l'ascoltatore. È un talento naturale, è il calcio alla massima essenza. Credo che da questo punto di vista qui Sarri con lui possa fare un lavoro veramente molto importante. Poi dipende sempre dalla grande disponibilità, perché i grandi campioni sono anche quelli che si mettono spesso a disposizione della squadra prima di tutto. Enorme verità, fa la differenza. È merito suo, e questo vale anche per Higuain, perché erano due giocatori che sembravano dovessero partire, che erano dietro le gerarchie, e questo va riconosciuto. Cioè, sono due che hanno dimostrato quest'anno di poter essere ancora titolari della Juve, ancora decisivi, quando quest'estate insomma c'erano delle suggestioni. Non è un mistero che Dybala potesse essere venduto e che Higuain non avesse grandi certezze. Quindi questo parliamo proprio degli uomini prima ancora che dei calciatori. Credo che sia stata una grande dimostrazione proprio di forza, in di assoluto, personalità, in assoluto, anche se Pierre eravamo qua insieme, dato che siamo qua da molti anni, eravamo qua insieme quando si paragonava Dybala a Messi, ti ricordi? È passato un bel po' di tempo. Quello è stato un errore. Eravamo qua insieme, attenzione, non è che abbiamo faccio 10 secondi, non è che credo nessuno abbia mai detto che Dybala avreste messo, diciamo che era una suggestione giornalistica in quel momento, soprattutto dopo quel famoso Juve-Barcellona dominato da Dybala su Messi con qualificazione della Juve 3-0, 0-0, e poi all'inizio della stagione immediatamente successiva, e poi sai, c'è il gusto del titolo, il gusto della suggestione, il gusto di spararla un po' grossa, questo sì. Poi io non credo che nessuno dei 100 principali giornalisti italiani avrebbe detto che Dybala in quel momento era migliore di Messi. Non l'ha mai detto nessuno, era chiaramente una suggestione. Però insomma, diciamo che sembrava un tipo di orizzonte al quale Dybala col tempo potesse tendere. C'è stata una fase di involuzione pesante, perché questo va detto, e adesso c'è un inizio di rinascita. Poi Messi insomma era un altro mondo, no? Ecco, non bestemmiamo. però che Dybala abbia un grande valore, che si stia ritrovando il miglior Dybala, questo è indiscutibile. Io fammi chiedere un'ultimissima cosa, Gianni De Biasi, poi lo salutiamo. Una valutazione invece, dato che ne parliamo dopo la borsa, sulla querela di ieri a Firenze, Gasperini, pubblico di Firenze, eccetera, eccetera, questo botta è risposta anche qui non usuale. Beh, sicuramente è una cosa che lascia un po' lì, perché credo che non sia normale che uno che va in campo, allenatore che sia o giocatore, debba essere bersagliato dalla tifoseria. Credo che sia un modo di scattare. Io non ho sentito, ho visto la partita, ma non ho sentito, se devo essere sincero, però ho capito la reazione di Gasperini, la comprendo, perché a un certo punto le mamme sono mamme per tutti e certamente bisognerebbe lasciarle serenamente al loro posto e pensare invece a tifare per la propria squadra. È stata abbastanza irrituale anche la risposta di Gasperini in conferenza stampa, cioè questi di cose così purtroppo giusto o sbagliato che sia, i personaggi pubblici, i calciatori, gli allenatori sono abituati a dover a subire delle cose. Diverso è il razzismo, già prevengo una domanda, il razzismo è un'altra cosa, perché il razzismo o la discriminazione territoriale, il dare vale anche per il sud, vale anche per luoghi dove siano avvenute delle tragedie di un certo tipo, ecco, queste cose qui secondo me sono diverse. Inneggiare a delle tragedie realmente avvenute o a dei dolori realmente vissuti, c'era quel giocatore del Celtic, se non ricordo male, qualche mese fa, che venne preso in giro per la sorella morta, ma ecco, quelle robe lì sono di un'altra categoria rispetto al baffa o al figlio di. Sì. Detto questo, Gasperini è da un po' che mi pare non abbia grande feeling con Firenze. Diciamo che difficilmente andrà a allenare la Fiorentina entro breve, insomma. Sì. Credo che in generale, ma questo anche Gasperini probabilmente oggi a mente fredda lo sa, i calciatori e gli allenatori siano abituati a ascoltare e andare avanti, no? Quindi a non tenersi le cose per loro, perché altrimenti credo che qualsiasi giocatore avrebbe alla fine della partita, diceva, anche tu Gianni avrai ricevuto qualche insulto semplicemente per il fatto che eri allenatore della squadra avversaria. Sì, sì, sì. Detto questo, è una reazione umana, e come tutte le reazioni umane, quindi secondo me va accettata, dico quella di Gasperini ovviamente. Sì, certo. È il rituale, proprio il fatto di questo scambio di, diciamo, di insulti a distanza. Gianni, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, come sempre. Buona giornata. Borsa, torniamo proprio su questo tema. 800 24 00 24, tra l'altro numero verde. Raga, rilassatevi un attimo e ditelo che sta Juve è una goduria, dai, che è una goduria. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Quindi, ieri ho preso un maglione, tre camicie, due paia di jeans e una giacca. Niente male per una giornata di saldi, eh? Ma vai, ho preso New York. Pensa in grande con i saldi Air Italy. Prenota entro il 20 gennaio e vola con sconti fino al 25% a New York, Miami, Toronto, Maldive, Los Angeles e tante altre destinazioni. Info e condizioni su airitaly.com. Air Italy. Imagine the world differently. Non so, dici che mi stava meglio Miami? Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Ehi, Flowy, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowy, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowey, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowey? Flowey è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e mette al sicuro automaticamente le PEC grazie all'intelligenza artificiale. Flowey, F-L-O-W-E-E. Scopri di più su flowey.net. Dario Romano Estensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. Dario Romano Estensibile.it. Driver di crescita e sostenibilità del settore, ricambio generazionale e impatto tecnologico. Questi i temi al centro di Consulenzia 2020, nella sua special edition aperta a tutti i consulenti finanziari. ANASF, insieme alle più importanti società di gestione del risparmio e di intermediazione finanziaria, vi aspetta a Roma dal 4 al 6 febbraio all'Auditorium Parco della Musica. Radio 24 sarà presente a Consulenzia con la diretta del programma 2 di Denari. Tutte le info su radio24.it. Mi sembrava strano che Don Beppe si facesse cuffiare così da Petrachi, ragazzi, era troppo strano. Don Beppe è il più grande acquisto dell'Inter degli ultimi 20 anni. Poche palle. I nostri ascoltatori e i loro WhatsApp 349-238-6666. Ma come detto, torniamo a Firenze. Questa per me è stata la più bella, nel senso di vista, no? Perché ho letto i giornali, squadra forte, ha pareggiato l'Inter, sa giocare, è buona, questa, non ero meglio oggi di loro, ok? E abbiamo vinto con 10, ok? Con il cuore, con la forza. Contento per il primo gol di Cutrone, sì, come sì, l'ha sì, visto. Sì, è bellissimo, Il signore ce l'ha mandato, abbiamo speso i soldi, nessuno dice guarda che non si fanno abbiamo fatto investimenti già. Questa è una partita eroica. Si dice eroica sì, qui sì, sì. In Italia? Made up of heroes, fatte da eroi. Gli insulti non ho mai fatti nessuno, figlio di è un insulto veramente pesante. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano figlio di e sono loro dei figli di p***a sicuramente, perché è un insulto eccessivo che non è... capisco l'ostilità verso un avversario, però questa è una cosa esagerata che va al di là del calcio, un fatto di maleducazione, di caffonaggine, un insulto pesante da accettare. Dialettica irrituale tra Gasperini e la curva di Firenze. L'altro era ovviamente, avrete riconosciuto, yeah, ok, Rocco Commesso. Ciao Benedetto Ferrara. Grazie assai. Yeah, ok, grazie assai. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Lui i soldi li spende, grazie assai. I soldi li spende, dice. E neanche vero in parte. Senti, a proposito invece della dialettica rituale di cui sopra, cosa ne pensi? Sì. Ma io penso che di fronte a certe situazioni la faziosità non esista. Quindi un ragionamento freddo si può dire che ovviamente io l'offesa reiterata per 90 minuti personale è una cosa fastidiosa e questo è indubbio e anche sbagliata, ma penso che Gasperini abbia ragione a risentirsi da una parte e dall'altro secondo me a mettersi sullo stesso piano è un po' come a scuola ricreazione quando ti dicono sì. Idiota, bellino te, cioè, sì. Cioè la, non la lo penso so, come mi te. Una cosa un po' infantile. Detto questo però credo che siccome non esiste una graduatoria all'interno di ciò che non è esattamente civile tra qualcosa di più corretto e meno corretto, cioè nel senso che certe cose ogni presidente, ogni tesserato di una società deve secondo me lavorare con i suoi tifosi e riferirsi ai suoi, non agli altri. Questo vale anche per gli allenatori quando parlano. Questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gasperini, che è un ottimo allenatore, un bravissimo allenatore, nasce dalle famose dichiarazioni su Chiesa, certo. Ecco, allora, siccome non è che Chiesa sia un cascatore di professione e altri giocatori siano come dei santi che cascano solo dietro le martellate prese a botte, il concetto è quello che ogni frase di un personaggio pubblico come un allenatore va sempre misurata e pensata prima di dare dei giudizi di un certo tipo pubblici. Detto questo, io mi auguro che fra Gasperini e Firenze si ristabilisca un tempo un rapporto armonico. È ovvio, scusa se lo dico, è una frase che non sopporto molto, ma insomma, non si può da una parte infamare un allenatore 90 minuti, non è carino, dall'altro nemmeno mettere in mezzo una città. No, ma al di là di mettere in mezzo una città, secondo me vale il discorso che hai fatto prima, quello dei bambini dell'asilo nella ricreazione, Pierluigi. Sì, no, ma c'è questa, giusto o sbagliato che sia, c'è questa, questo allenamento che qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore e qualsiasi dirigente fa nella sua vita, nei suoi anni di carriera, a far finta di non sentire gli insulti che gli arrivano sempre e comunque in qualsiasi circostanza. In qualche occasione gli insulti sono particolarmente pesanti, o perché sono reiterati, o perché, ripeto, questa è veramente un'altra fattispecie, quando si va su un terreno specifico e quindi si prende in giro qualcuno per il colore della sua pelle, per la sua origine, per la sua provenienza, per delle sfighe che gli sono capitate nella vita, facevo l'esempio prima di quel giocatore del Celtic, per dei problemi che ha avuto, ecco, quelle robe lì per me sono di, onestamente sono di un'altra categoria rispetto all'accusa generica, vaffa, eccetera, no, eccetera. Su la questo, mamma, per carità, questo è pacifico, sempre, questo è pacifico. La mamma è la mamma, è perfettamente, ripeto, Gasperini ha uno sfogo ieri, secondo me molto, molto umano e logico, e francamente io non ho mai insultato nessuno, perché figurati che cosa, che tipo di roba allo stadio, cioè me ne può fregare veramente di meno. Quindi, però dico anche che solitamente il personaggio pubblico, il calciatore, l'allenatore è abituato a sentire queste cose e far finta di non sentirle. Guarda, io passare oltre. Scusate, il calciatore e l'allenatore, per quanto non è mai giusto offendere, questo lo premettiamo sempre, non è facendo della faziosità. Ma il calciatore e l'allenatore e i personaggi pubblici, attenzione, in generale, no? Sanno di avere degli haters sui social, di mettere in conto gente che ti fischia in uno stadio. Come diceva, e tu stai pagato non per accettare, vabbè, in maniera totale qualsiasi tipo di insulto, ma per avere un atteggiamento, come dire, superiore in questo caso, no? Sì, se ti metti sullo stesso piano a discutere, sbagli, perché poi vorrei anche ricordare, scusate, se no stiamo a fare chi è più bravo e meno bravo, ma che Dalber, parlavamo di Fiorentina, no? Dalber è stato insultato in quanto nero, no? Giocatore di colore su un altro campo, se non sbaglio, non vorrei dire no, non lo dico, non me lo ricordo, se non sbaglio, e poi no, che Rocco Commisso in tribuna è stato, lui e il figliolo sono stati infamati da dei tifosi, ma queste cose succedono purtroppo tutte le domeniche. Allora non voglio dire che bisogna fare finta di niente. No, devi quando essere dico, più ognuno, forte di loro. Quando non ce la fai più e ti lasci andare, ti sfoghi come il caso degli Gasperini di ieri, è chiaro che metti a nudo una parte di te molto istintiva, molto umana, e sono d'accordo, cioè è ovvio che in qualche modo finisci quasi per dare una soddisfazione a chi ti ha insultato, no? È il famoso discorso della visibilità. Di certa gente che fa delle cose probabilmente anche perché vengano commentate per ferire, no? Se uno ti insulta è perché ti vuole ferire, nel momento nel quale tu riconosci che ti senti ferito in qualche modo gli stai dando una soddisfazione. Mi unisco all'auspicio che fra Gasperini e Firenze il rapporto torni armonico, perché assolutamente io credo che il motivo fondamentale sia legato a quelle famose dichiarazioni, certo, su Chiesa, ma questo è l'oggetto del contendere, quello. Guarda, io per caso poi vi do appuntamento subito dopo il traffico, quindi tra pochi secondi, dico solo questo, che oggi leggevo sulla Gazzetta dello Sport questa doppia pagina di auguri a Meneghin, che compie 70 anni sabato, e c'erano varie opinioni, vari ricordi di un sacco di persone che hanno giocato con lui, l'hanno allenato, eccetera. E c'è Ettore Messina che dice: ricordo una partita con Trieste, al secondo anno da capo allenatore della Virtus. All'intervallo un tifoso mi apostrofò pesantemente perché stavamo giocando male. Nervoso, anch'io cercai di reagire e lo mandai a quel paese. Mi sentii afferrare per il braccio e Dino mi disse: coach, lascia perdere, non ne vale mai la pena. Era già al monumento della nostra pallacanestro, si è preso cura di questo giovane esordiente perché non si mettesse nei guai. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, ancora una cosa con Benedetto Ferrara, perché al di là delle polemiche tra tribuna e panchina, la viola ha ripreso un po' di colore. No, la viola ha ripreso colore perché Iachini è così. Iachini è arrivato amato nei ricordi del picchia per noi Beppe Iachini quando in campo non si seguiva anche in bagno praticamente. però non esattamente del tecnico del calcio totale, del calcio rivoluzionario, cioè è stato chiamato per trasmettere alla squadra una mentalità che deve essere quella innanzitutto di pensare, mettiamoci, come dire, tranquilli, in una classifica tranquilla e torniamo a far gioco quantomeno per sfruttare le potenzialità che ci sono. I semplificatori sono di gran moda. Io credo che il semplificatore, come dici te, ha fatto però ha due vittorie al Franchi, vittoria al Franchi che prima della SPAL mancava da ottobre, e ha fatto e un pareggio a Bologna, sappiamo com'è andato, no? Al 95esimo, quindi quindi ha fatto 7 punti in 3 partite. E questo dice tutto, non solo, ma come spiegava Rocco Commistro in quello che voi nell'audio che avete mandato, l'Atalanta sembrava una partita segnata questa qui, no? L'Atalanta è valanghe di gol, l'Atalanta che gioca un calcio veloce, intenso, che sembrava quasi la Fiorentina fosse condannata a salutare la Coppa subito, e invece è successo quello che tra l'altro in 10 per l'espulsione Pezzella. Sì. Quindi è successo qualcosa che ha ridato ai tifosi quello che è il sentimento di base di tutte le fedi calci sportive, e cioè l'orgoglio, sì, no? Certo, soprattutto certo. Sul calcio, cioè l'orgoglio di fare qualcosa che rilancia mentalmente una squadra che sembrava un po' persa. Diciamo. Quindi che come credo... tutte le tifoserie puoi anche accettare la sconfitta, ma li vuoi vedere combattere. Questo è il senso del discorso, che vale per la Fiorentina, vale per il Napoli, vale per tutti quelli che hanno seguito la via della semplificazione con per il momento buoni risultati. Grazie Benedetto, un abbraccio. Grazie. Ciao. A voi. Ciao. Allora Pierluigi, tu che sei, ecco, Carlo. No, siccome è arrivato un tweet di una persona che dice: come fate a giustificare, Alessandro, glielo dico proprio tranquillamente, nessuno, è meglio spiegarsi bene, nessuno giustifica gli insulti. Ma chi? Nessuno chi giustifica gli insulti. Io sogno uno stadio dove si tifa solo in positivo, sia ben chiaro, gli insulti sono gravissimi e diventano orrendi, soprattutto, lo ribadisco, quando si fa riferimento a tragedie, si fa riferimento a discriminazioni, a cose avvenute, a problemi personali delle persone, quindi figurati se nessuno giustifica niente. Ma... si sta semplicemente dicendo che nel momento nel quale Gasperini ha quello sfogo umanissimo, finisce quasi per dare una soddisfazione a chi l'ha insultato, certo, per esattamente tutto qui, ma tutto poi qui, sai, ognuno poi, capisce quello uno che giustifica vuole. Gli insulti, ma come fai, insulti, ma dai, ma chi quale imbecille giustificherebbe un qualunque tipo di insulto, poi ognuno tanto capisce quello che vuole. A proposito di tweet e di comunicazione, allora tu sai che essendo un frequentatore di questo mondo, nel bosco monotono della comunicazione societaria ogni tanto spunta un elfo, quell'elfo è il Pescara. Perché, ad esempio, sono rimasto colpito da... L'altro giorno c'era Napoli che ha fatto tweet: Sebastiano Luperto è a casa con l'influenza. A risposta del Pescara Calcio: c'è l'influenza in giro, poi con questo tempo non si capisce più nulla. Bene, tutto questo è opera del geniale Emanuele Garau. Buongiorno, ciao Emanuele. Buongiorno a voi e grazie per il geniale, anche se credo di non meritarmelo. Social media manager del Pescara, che ovviamente sta a Pescara, no? Sta a Pescara? Ovviamente no, nel senso che mi trovo in Canada. Ecco, tutto questo già. Mi trovo in Canada, però sono a Pescara grazie al continuo confronto, certo, con l'area comunicazione, quindi con Massimo Mociante. Questo è ovvio. Poi, Piera, hai letto ieri Cristiano Ronaldo è a casa con la sinusite. Tweet del Pescara? No, anche lui. No, devo dire, ecco, tornando al di là dei complimenti complessivi sulla creatività, che faccio i complimenti a Emanuele, ma a tutto il Pescara Calcio, perché adesso stavo facendo proprio un discorso sull'importanza del tifo in positivo, sul rifiuto di qualsiasi forma di razzismo, sul rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione. Il Pescara sta facendo giurisprudenza, sta facendo scuola. Sì. Ecco, facciamogli raccontare, ci vuoi raccontare a lui qualcosa, Emanuele? Allora, il tutto è molto semplice, nel senso che il calcio per me per il pescare, ovviamente per l'area comunicazione, quindi per la società, ha sicuramente un peso importante, no, nella vita degli italiani, no? E allora perché non lanciare dei messaggi, determinati messaggi che possono essere spiritosi, possono essere simpatici, ma anche seri, voglio dire, no? Si può passare dal divertirci, ma anche al trattare appunto argomenti quali il razzismo, la violenza, insomma. C'era stato un episodio specifico con un vostro tifoso che avete licenziato con un tweet, no? Su questo sì, punto. Diciamo che questa persona, detto proprio in maniera anche scherzosa, me l'ha servita sul piatto d'argento, perché comunque si è posto in una maniera che poi mi ha consentito di rispondere in un determinato modo. Ovviamente questo voler prendere posizione e le distanze, no, rispetto al fenomeno del razzismo, è un qualcosa che ci tocca e che cerchiamo di portare avanti, ovviamente sperando di non doverne trattare successivamente, certo. Voglio dire, insomma. Ogni forma di comunicazione deve essere impiegata per questi fini, e il Pescara lo fa benissimo, tanto che questo tifoso è stato licenziato in un tweet. Facciamo noi bene, signore e signori, Andrea non è più un nostro tifoso. Ci risentiamo presto, Emanuele Garau. Purtroppo devo chiudere al volissimo, ringraziando tra Pardo, Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani alle 2:00.